Grazie. In realtà, come cioè, lo spiego, sono un giurista e in particolare sono un amministrativista, quindi riprendendo la metafora della nave, se prima eravamo in plancia sul ponte di comando, adesso con questa relazione scenderemo in sala macchine, ho paura, insomma. D'altro canto noi amministrativisti ci occupiamo appunto di queste cose un po' terra terra. E nella prima parte della mia relazione io proverò a esporre una ipotesi sull'amministrazione pubblica italiana che è inedita, nel senso che è una ipotesi che ho sviluppato recentemente, quindi anzi sono particolarmente grato a Piero Schiera e agli altri amici dell'istituto, perché questo mi consentirà, spero, un riscontro della follia o meno di questa ipotesi. E mi rendo anche conto che questa analisi dell'amministrazione che io faccio è molto legata al caso italiano, nel senso che è possibile che gli amici e i colleghi vengono da altri paesi, in questo caso dalla Germania, non si riconoscano completamente in questa analisi, però può darsi che, come a volte accade, l'Italia è talmente strana che poi magari anticipa cose che succedono altrove. Nella seconda parte della relazione invece esporrò alcune tesi che già da tempo vado sostenendo, mi scuso con gli amici in particolare Roberto Allegretti che già la conoscono, ma in un contesto diverso può darsi che comunque possa avere una parola finita. Allora, nel titolo del lavoro i due termini intente e sovrano sono appostati in maniera volutamente provocatoria, perché l'idea è di dimostrare che questi due termini non sono affatto antitetici, utente e sovrano, e che anzi l'attuale rapporto di subordinazione dell'utente nei confronti dell'amministrazione può essere modificato in modo tale da configurare questo rapporto in maniera costituzionalmente più corretta. Se le pubbliche amministrazioni sono lo strumento principale con cui la Repubblica persegue il principio costituzionale di uguaglianza sostanziale, articolo 3, secondo comma, allora la persona al cui pieno sviluppo va finalizzata tutta l'attività amministrativa non può logicamente essere in posizione di subordinazione rispetto all'amministrazione, perché chi è servito è in una posizione superiore rispetto a colui che serve. Allora, se l'amministrazione è realmente quello che la Costituzione dice che deve essere, cioè lo strumento per la promozione della dignità di ogni persona e della sua piena realizzazione come essere umano, allora il cittadino non è più l'utente, colui che usa un servizio pubblico, bensì è colui che è servito, cioè è un sovrano. Oggi si dice che le imprese devono essere customer oriented, devono essere orientate al cliente, per dire che solo in questo modo le imprese possono avere successo. Mi sembra che si possa dire che allora anche l'amministrazione, per realizzare lo scopo affidato dalla Costituzione, deve essere citizen oriented, deve essere orientata al cittadino e quindi deve finalizzare tutti gli elementi che la compongono: funzioni, organizzazione, procedure, personali, mezzi, informazioni e controlli alla realizzazione del pieno sviluppo della persona umana. Ma poiché ogni cittadino è diverso dagli altri, perché ogni persona è diversa dagli altri, un'amministrazione non può avere successo nel perseguimento di questa missione costituzionale, se possiamo chiamarla, se non si pone nei confronti dei propri referenti in una posizione di rispetto, di attenzione, di ascolto, cioè proprio nella posizione in cui ci si deve porre di fronte ad un sovrano. Che le amministrazioni devono essere orientate al cittadino non deriva però soltanto dall'esigenza di dare piena attuazione all'articolo 3 secondo comma della Costituzione, che per quanto mi riguarda, poi lo riprenderò dopo, costituisce un po' il programma dell'amministrazione, ma deriva anche dalla necessità di dare alle amministrazioni pubbliche un ancoraggio ulteriore rispetto al principio di legalità, in quanto a me sembra che quest'ultimo si stia rivelando insufficiente per arginare e finalizzare attività di amministrazione che sempre più si configurano come soggetti autonomi. Se è vero che essere autonomo vuol dire poter liberamente decidere del proprio destino, cioè poter essere sceglitore di sé, allora si deve ammettere che le pubbliche amministrazioni sono di fatto, in alcuni casi anche di diritto, soggetti autonomi, in quanto sono in grado di determinare la disciplina di tutti gli elementi di cui sono composti. Prendiamo in primo luogo le funzioni amministrative. È vero che sono fissate con legge, ma le esperienze e le ricerche compiute dimostrano che nelle assemblee legislative hanno maggiore probabilità di essere approvate le proposte di legge che provengono dal governo o dalla giunta, piuttosto che non quelle che provengono dalle minoranze e dai singoli parlamentari, per l'ovvio motivo che le prime sono sostenute dal voto della maggioranza dell'assemblea, che a sua volta ha dato la fiducia al governo. Ma è altrettanto noto che queste proposte di legge governative sono di fatto elaborate dai funzionari dei settori interessati alla proposta medesima, perché costoro sono spesso invece in grado di padroneggiare problematiche complesse e comunque specialistiche. Quindi si ha questo tipo di circuito. Sulla base di direttive politiche di carattere generale, i funzionari dell'amministrazione interessata elaborano una proposta di legge che viene poi rivista e approvata dal responsabile politico del settore, il ministro o l'assessore. Costui, avendo il sostegno della maggioranza che sostiene il governo di cui fa parte, ne ottiene l'approvazione in sede di assemblea legislativa. Naturalmente deve accettare delle modifiche alla proposta di legge provenienti da soggetti economici e da gruppi di interesse, ma in genere il responsabile politico non accetta mai di apportare alla proposta modifiche che i suoi, tra virgolette, funzionari non condividono. C'è una navetta fra chi sta in aula, in commissione, i funzionari, per verificare cosa si può accettare e fino a che punto si può modificare. Il risultato è una legge in cui le funzioni dei soggetti amministrativi che devono applicarla sono state definite dai soggetti medesimi. E guardate che quanto più minuta e dettagliata è questa disciplina, tanto meglio per i funzionari, che così trovano nelle norme ancora più facilmente una difesa contro gli interventi degli organi di controllo della magistratura. E quindi possono comunque, diciamo, coprirsi, per così dire, dietro le disposizioni di norme che però di fatto poi interpretano nella maniera che tengono più. Passando al secondo elemento, l'organizzazione. Spesso la legge disciplina anche nei dettagli l'organizzazione, ma anche in questo caso vale quello che si è detto prima sulle funzioni, perché siccome fra l'altro dall'articolazione organizzativa dipendono le possibilità di carriera e di potere dei funzionari all'interno dell'amministrazione, è chiaro che questi difficilmente trascurano di influire sulla disciplina legislativa dell'organizzazione. Se poi la legge non disciplina l'organizzazione, tanto più questa disciplina viene gestita all'interno dell'apparato amministrativo e in genere il vertice politico del settore non è in grado di contrastare né lo desidera spesso le proposte sull'organizzazione presentate dai funzionari. Il terzo elemento è il personale. Qui quello che si è detto prima vale ancora di più, nel senso che l'autonomia di controllo dell'amministrazione in questo settore è assolutamente nota ed evidente. Non c'è un aspetto della disciplina del personale che sfugga agli interessati, o direttamente o attraverso una delle tante sigle sindacali presenti nel gruppo di impiego. Un altro elemento ancora sono i mezzi, intendendosi per mezzi non solo quelli finanziari ma anche quelli di altro genere, dalle mezzi strumentali all'edilizia. In questo caso l'autonomia di ogni amministrazione è condizionata dalla presenza di altri apparati, per cui in pratica le amministrazioni sono in conflitto perenne le une con le altre per la ripartizione di risorse che per definizione sono scarse. E al tempo stesso ogni amministrazione è impegnata in una contrattazione con l'amministrazione che controlla la spesa, il tesoro, la ragioneria generale a livello centrale e a livello locale l'assessorato competente per il bilancio. È vero che in questo tipo di conflitto e in questo tipo di contrattazione conta molto il peso dei rispettivi vertici politici, ma una volta che i mezzi sono stati assegnati, le amministrazioni sono sostanzialmente autonome nel decidere l'utilizzazione, sia pure dei vincoli determinati dalle norme sulla contabilità. Altro elemento ancora, le informazioni. Le informazioni sono la linfa vitale dell'organizzazione e anche qui l'autonomia delle amministrazioni pubbliche è evidente, addirittura fino alla legge 241 del 90, più che di autonomia si poteva parlare di arbitrio, nel senso che dietro la difesa del segreto d'ufficio, le amministrazioni gestivano in maniera totalmente discrezionale il proprio patrimonio informativo, utilizzandolo in questa perpetua lotta per il potere che è la vera vita delle amministrazioni dietro lo schermo dell'interesse pubblico. Ma anche se il 241 del 90 ha introdotto principi di trasparenza e di pubblicità, di fatto le amministrazioni rimangono in larga misura autonome nella gestione del proprio patrimonio di informazioni. E infine l'ultimo elemento, i controlli. E anche qui le forme di controllo interne sono affidate a soggetti che fanno parte dell'amministrazione stessa e quelle esterne sono affidate a soggetti che non appartengono all'amministrazione in senso stretto, pensiamo alla Corte dei Conti o ai giudici amministrativi, ma che per formazione e tradizione si possono considerare parte del sistema amministrativo in senso ampio. Se a questi fattori ne aggiungiamo altri, vediamo che l'autonomia delle amministrazioni pubbliche è effettivamente un dato con cui bisogna ormai fare i conti. Pensiamo per esempio ai regolamenti, in cui il contenuto è rimesso totalmente alla volontà delle amministrazioni. E attenzione che i regolamenti influiscono non soltanto sulle modalità con cui una legge viene applicata, ma addirittura sulla sua stessa possibilità di applicazione, in quanto basta che l'amministrazione non emani un regolamento di esecuzione di una legge per vanificare di fatto la volontà del legislatore per un tempo anche indeterminato. Quindi, in pratica, non soltanto le amministrazioni elaborano le leggi che poi applicheranno, ma elaborano anche regolamenti per l'attuazione di quelle stesse leggi. Quindi da questo punto di vista l'autonomia mi sembra evidente. Pensiamo poi alle circolari, alle direttive o anche alle singole circostanze concrete in cui è necessario interpretare una norma per applicarla a caso concreto. Anche qui all'interpretazione che dà l'amministrazione se ne può contrapporre soltanto un'altra, cioè quella che danno i giudici amministrativi. Ma nel momento dell'interpretazione è evidente che l'amministrazione va molto oltre la mera applicazione della norma, in quanto interpretare significa letteralmente chiarire il senso di una cosa ritenuta oscura. E quindi il soggetto che interpreta la norma ne trae, per così dire, quello che esso ritiene sia il suo vero significato, o comunque quello che ritiene in quel momento il più adatto alla situazione concreta. E non è un caso, se posso citare un soggetto che l'amministrazione se ne intendeva, cioè Giolitti, non è un caso che Giolitti dicesse, perlomeno cinicamente, che per gli amici le norme si interpretano e i nemici si applicano. Ma naturalmente, nell'interpretare e nel trarre dalla norma un certo significato, l'amministrazione esclude la possibilità che a quel testo sia data un'altra interpretazione, cioè sia estratto dal testo un altro tra i possibili significati che esso contiene. E in questa attività si manifesta quindi evidentemente l'esercizio di un potere consistente nel ridurre la gamma delle scelte che altri vorrebbero poter esercitare. Cioè si ha una riduzione di complessità, per usare una terminologia che credo sia conosciuta a molti. Quindi, sotto questo profilo, non soltanto l'amministrazione autonoma, ma esercita anche un potere di notevolissima rilevanza. D'altro canto, l'autonomia dell'amministrazione non viene meno nemmeno in quei rari casi in cui il Parlamento approva una legge non gradita all'amministrazione, come appunto è il caso della legge 241 del 90 o la legge 15 del 68 sulle autocertificazioni. Perché allora in questi casi le amministrazioni si limitano a spostare fonte di resistenza dalle aule parlamentari agli uffici e si limitano a disapplicare la legge. Quando, come nei casi di queste due leggi, non sono necessari regolamenti per applicare la legge stessa, e quindi non è possibile coprirsi dietro l'alibi, per così dire, del regolamento, si limitano semplicemente a non applicare quelle norme che possono incidere sulla loro autonomia o che possono comportare un'assunzione di responsabilità o che comunque per qualsiasi motivo non ritengono di dover applicare. Basta prendere, per esempio, nel 241 del 90 l'istituto delle conferenze dei servizi, che di fatto non viene applicato in Italia. E non viene applicato, a mio avviso, nonostante siano uno strumento sicuramente efficace per abbreviare i tempi procedimentali, perché le amministrazioni, per meglio dire, i responsabili dei vari settori, non amano dover dichiarare in quel momento in pubblico, in una situazione diciamo non più modificabile, qual è la scelta per i vari possibili assetti di interessi. Preferiscono tenersi le mani libere e contrattare con i propri referenti all'interno dell'amministrazione e all'esterno la propria posizione rispetto a quel problema. Allora, il caso della 241 del 90 è esemplare da questo punto di vista, cioè dal punto di vista di un'autonomia dell'amministrazione che diventa addirittura disapplicazione. Perché è una legge che, come credo molti sappiano, può incidere in profondità sugli spazi di autonomia delle amministrazioni grazie alla presenza degli amministrati all'interno del processo decisionale pubblico. E proprio per questo, da quando la legge è stata approvata, non a caso il 7 agosto del 90, quindi in piena estate, cogliendo di sorpresa la burocrazia, è cominciata una resistenza su tutti i piani. Umberto Allegretti, credo avrà sentito anche lui, consiglieri di Corte dei Conti o funzionari dire in corsi amministrativi la legge è inapplicabile. Cioè, che cosa è successo? La disapplicano, la svuotano nelle disposizioni più significative, basta prendere il caso dei termini del procedimento, sono stati diciamo misurati con un metro che non è quello normale, umano, ma è quello biblico, Dopodiché cosa hanno fatto? Hanno annunciato il fallimento della legge, dovuto naturalmente non all'ostruzionismo burocratico, ma all'illuminismo eccessivo del legislatore, che si è spinto troppo avanti nel processo di modernizzazione dell'amministrazione italiana. Cioè, sostanzialmente, cosa è successo nella vicenda del 241 del 90? Le amministrazioni, quando lo ritengono necessario, possono spingere l'esercizio della propria autonomia ben oltre il limite della quotidiana disapplicazione, fino ad arrivare al punto di contrapporre esplicitamente la propria valutazione della realtà a quella dei rappresentanti del popolo sovrano, dichiarando la sostanziale irrilevanza di quelle norme del sistema amministrativo. E questo fenomeno, se volete, chiudendo su questo punto, lo si può verificare anche nel caso, per esempio, dei residui passivi, che spesso sono certamente dovuti a carenze di tipo organizzativo, ma spesso sono il modo con cui l'amministrazione si rifiuta di dare esecuzione a una volontà espressa dal legislatore, non spendendo. Allora, sull'autonomia dell'amministrazione si potrebbero dire tante altre cose, si potrebbero portare altri elementi a sostegno della tesi che siamo di fronte a un potere autonomo. Però a questo punto vale la pena probabilmente passare a una analisi di come si può affrontare questa situazione. Perché secondo me, se è vero che l'amministrazione ha queste caratteristiche, viene posto in discussione il principio della separazione dei poteri, non soltanto nella sua accezione tradizionale, cioè nei rapporti tra il cosiddetto potere esecutivo e il potere legislativo e giudiziario, ma direi forse soprattutto all'interno di quello che Berti chiama lo spazio amministrativo. In altri termini, diamo per superato il mito della necessaria ripartizione dei poteri, ma manteniamo però, e io credo che dobbiamo farlo, intatta la validità del principio secondo il quale, per evitare che si abusi del potere, il potere deve limitare il potere. Questo è quel nocciolo della teoria. E allora, in termini istituzionali, questo significa che le funzioni normativa, esecutiva, attuativa e di controllo non possono essere cumulate dallo stesso soggetto nel medesimo ciclo di svolgimento della vita politico-costituzionale dell'ordinamento. E invece, a me pare che si possa dire che il potere amministrativo si caratterizza oggi proprio per il cumulo al proprio interno di tutte e tre queste funzioni essenziali. Esso è in grado di autodeterminarsi sia come sistema, sia come singole amministrazioni che lo compongono, grazie al fatto che al proprio interno vi sono soggetti che possono determinare gli obiettivi, possono controllare la fase delle implementazioni e realizzazioni e alla fine controllano i risultati dell'attività. Allora, a me sembra che si deve cercare di recuperare in questo ambito particolare la validità del principio per cui, per evitare che se ne abusi, il potere deve limitare il potere, applicando il principio della separazione dei poteri all'interno dello spazio amministrativo, individuando forme di separazione e di reciproca limitazione dei soggetti che esercitano rispettivamente la funzione normativa, attuativa e di controllo. Ora, da questo punto di vista si possono allora leggere alcuni provvedimenti recenti di riforma amministrativa e in particolare il decreto legislativo 29 del 93 che introduce, per quanto riguarda la funzione normativa e quella attuativa, intesa l'una come fissazione degli obiettivi e delle modalità per il loro perseguimento, l'altra come concreta realizzazione di quegli obiettivi, introduce, dicevo, il decreto 29, la distinzione tra indirizzo e gestione e individua quindi in maniera tutta da verificare, ma tanto lo fa, gli ambiti rispettivi di intervento del potere politico, che è l'indirizzo, dovrebbe essere l'indirizzo, di quella amministrativa che è la gestione. Invece, per quanto riguarda la funzione di controllo, si può forse leggere come una tendenza nella direzione di cui stiamo parlando la proliferazione di autorità amministrative indipendenti, destinate fra l'altro a vigilare anche sui servizi pubblici, e quindi, diciamo, come sintomo della tendenza a separare il momento dell'erogazione del servizio dal momento del controllo sul risultato. Allora, lo schema per la separazione dei poteri all'interno dello spazio amministrativo sembrerebbe potersi configurare in questo modo. La dirigenza politica, in quanto vertice dell'amministrazione, ministro, assessore, presidente di ente pubblico, individua nell'ambito del mandato conferito dalla legge alla propria amministrazione gli obiettivi da perseguire e le modalità di azione per perseguirli. La dirigenza amministrativa, che nell'ambito delle proprie funzioni di policy making, cioè di presentazione al vertice politico delle varie opzioni, ha contribuito alla scelta degli obiettivi da parte della dirigenza politica, nell'ambito poi della propria autonomia gestionale, realizza questi obiettivi sulla base delle direttive ricevute dal Ministero. Infine, soggetti diversi da quelli che hanno operato per il raggiungimento degli obiettivi verificano la congruità dei risultati rispetto alle decisioni iniziali della dirigenza politica. La separazione tra responsabilità politica e responsabilità amministrativa, quindi fra indirizzo e gestione, sembra ormai acquisita come principio per la separazione dei poteri all'interno dello spazio amministrativo, anche se è tutta da verificare per la concreta attuazione. Viceversa, mi sembra che valga la pena in questa sede, proprio per il discorso sulla democrazia che stiamo cercando di fare, focalizzare l'attenzione sul momento del controllo, cioè sulla separazione tra il momento operativo e quello del controllo. Ecco, a me pare che in questa terza dimensione, quella del controllo, accanto agli strumenti di controllo tradizionali e quelli più recenti, come appunto le authorities, che citavo prima, si può riconoscere un ruolo dei protagonisti ai cittadini destinatari dell'azione amministrativa. E qui arriviamo quindi alla seconda parte del mio intervento, che è appunto quello che riguarda la possibilità di dare agli utenti una sovranità nel quotidiano rapporto con l'amministrazione che finora apparentemente non sembrava di poter riconoscere, se non in ambito della sfera politica. Per far questo, un passaggio indispensabile è quello di chiarire che nella concezione tradizionale dell'amministrazione, il rapporto tra amministrazione e cittadini era fondato sul binomio autorità-libertà, in quanto si riteneva che soltanto attraverso l'esercizio del potere amministrativo l'amministrazione potesse raggiungere, anche contro gli interessi dei privati, gli obiettivi affidati dalla legge. Infatti, non a caso, la tutela degli interessi dei privati era affidata a forme di contenimento dell'esercizio di questo potere. Nell'amministrazione attuale, invece, a me pare evidente, insomma, che il potere amministrativo è soltanto uno degli strumenti che l'amministrazione può usare per perseguire i propri obiettivi. Anche perché nell'amministrazione attuale la stragrande maggioranza delle risorse, in termini di personale e di organizzazione, è destinata a erogare servizi, offrire prestazioni, non a imporre qualcosa ai cittadini. Allora, per l'amministrazione attuale, quello che è veramente importante non dovrebbe essere l'esercizio del potere, bensì il raggiungimento di un risultato di interesse generale grazie allo svolgimento in maniera efficiente ed imparziale della funzione affidata dalla legge dell'amministrazione. Oggi, insomma, il cittadino non ha bisogno, non vuole tanto tenere lontano l'amministrazione dalla propria sfera privata, quanto invece vuole dall'amministrazione servizi che garantiscano standard di vita che in una società complessa come la nostra possono essere garantiti soltanto dalla presenza di servizi pubblici di un certo livello. Allora, per questi cittadini il problema dei rapporti con l'amministrazione consiste nella capacità di quest'ultima di svolgere la propria funzione in modo da soddisfare i loro interessi. Può essere l'interesse al trasporto pubblico efficiente, a un'istruzione adeguata, a una prevenzione sanitaria, quello che è. Ma quello che è importante è allora chiarire che il binomio non è più autorità-libertà, ma funzione e interesse. Funzione dell'amministrazione e interesse del cittadino fruitore del servizio. Affinché l'interesse possa essere soddisfatto, lo svolgimento della funzione deve essere caratterizzato da due elementi fondamentali che troviamo nella Costituzione, che sono l'imparzialità e l'efficienza. Ma la presenza di questi due elementi può essere assicurata soltanto da controlli esercitati durante lo svolgimento della funzione, nel senso che sono valori, quelli dell'imparzialità e dell'efficienza, che devono essere costruiti dentro il procedimento stesso, non possono essere aggiunti dopo. E allora, alle tradizionali forme di controllo che hanno come oggetto il risultato dell'esercizio del potere amministrativo e che quindi intervengono dopo che il potere è stato esercitato, si devono affiancare oggi forme di controllo in grado di garantire che all'interno dei confini tracciati dalle leggi l'amministrazione soddisfi realmente gli interessi di coloro a cui essa si rivolge. Ora, in questa direzione noi abbiamo nel nostro ordinamento oggi disposizioni che introducono nuovi diritti per i cittadini nei confronti dell'amministrazione. Ma quello che è importante rilevare è che questi nuovi diritti, tra cui soprattutto quelli previsti dalla legge 241 del 90, fondano su una base teorica che è rappresentata dal concetto di sovranità popolare. Nel senso che La legittimazione, l'esercizio di qualunque potere o funzione pubblica deriva dalla volontà espressa democraticamente dalla maggioranza del corpo elettorale. Un po' il discorso della rappresentanza che è stato fatto qui. Ma se l'esercizio del potere amministrativo e lo svolgimento della funzione amministrativa poggiano sulla legittimazione derivante dalla volontà espressa dal popolo sovrano mediante il sistema elettorale, a me sembra che si debba fare il passaggio ulteriore e dire che le persone che in veste di elettori concorrono alla formazione di questa volontà devono poter anche, in veste di utenti, di destinatari direttamente dell'amministrazione, controllare l'uso che le amministrazioni fanno del potere amministrativo e partecipare all'esercizio della funzione amministrativa in veste di co-amministratori. Perché? Perché nel caso in cui si tratta di controllare l'esercizio del potere amministrativo, il cittadino non può far altro che ricorrere a una terza parte, che non è quella che ha esercitato il potere, non può essere lui, e che è il magistrato. Ma nel caso in cui si tratta di verificare se l'esercizio della funzione svolta dall'amministrazione ha soddisfatto un certo interesse, questa verifica non può essere fatta da altri che dal titolare stesso dell'interesse che la funzione amministrativa doveva soddisfare. Ora, una formazione come questa, fino a pochi anni fa, sarebbe sembrata assurda, cioè sarebbe sembrato assurdo, cioè voler introdurre nell'amministrazione controlli basati su questa ipotesi di utente sovrano, di utente come giudice della qualità. Ma oggi io credo che sia non solo indispensabile, ma anche possibile. Indispensabile per due motivi: da un lato, per attuare all'interno dello spazio amministrativo quella separazione tra i poteri che, come dicevo prima, credo sia l'unica misura che possa realmente limitare l'abuso del potere amministrativo, dall'altro anche per elevare il livello qualitativo dei servizi offerti oggi in Italia, nel senso che introducendo questo meccanismo dell'utente come giudice si introduce una spinta che poi cercherà in qualche modo di rendere più operativa successivamente a migliorare il livello qualitativo. Dall'altro però questo tipo di controllo oggi è possibile grazie all'entrata in vigore della legge sul procedimento amministrativo, che cambia radicalmente il rapporto tra amministrazione e cittadini. Brevemente su questo punto, perché mi rendo conto che il tempo sta passando e voglio arrivare alla parte, diciamo, più operativa, in qualche modo più legata forse anche al nostro discorso sulla democrazia. Però è un punto cruciale. Quando un cittadino, una persona, piccolo imprenditore, lavoratore, immigrato, anziano, una persona umana, si rivolge all'amministrazione chiedendo qualche cosa che per ogni persona è diversa, anche se è la stessa cosa che viene chiesta, un certificato, una visita medica, perché cambia la persona, cambia il contesto e cambiano gli scopi. Allora, da questo punto di vista, io credo che bisogna che le amministrazioni pubbliche si rendano conto che l'erogazione di un bene o di un servizio pubblico non è mai fine a se stessa, ma è il requisito essenziale per consentire a quella persona la propria realizzazione, la propria piena realizzazione. Qui torniamo all'articolo 3, secondo comma, che citava all'inizio. La Costituzione italiana riconosce che il principio di uguaglianza formale non è sufficiente e che bisogna impegnare tutti i pubblici poteri nella rimozione di quegli ostacoli economici e sociali che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione delle imprese. Notate che la Costituzione non dice come deve essere realizzato questo pieno sviluppo, quindi non è una Costituzione che introduce un'intromissione del potere pubblico nella sfera privata. Si limita a dire: io rimuovo gli ostacoli, poi tu fai della vita come vuoi, però io ti metto in condizione di poter scegliere, di essere, come dicevo prima, autonomo, cioè di essere sceglitore di sé. Allora, in questa ottica, l'erogazione di beni o servizi diventa uno dei modi con cui si attua il dettato costituzionale della rimozione degli ostacoli. Allora, l'efficienza dei servizi pubblici diventa una condizione essenziale per la realizzazione del diritto al pieno sviluppo di ogni persona. Ed ecco perché, secondo me, il perseguimento dell'efficienza amministrativa oggi è molto di più che non un problema di tecniche manageriali, ma è un problema di valori. E qui sono contento di vedere che, senza saperlo, ero in sintonia con le cose che dicevo all'inizio che lo schiero. Ed è questo uno dei motivi per cui, aggiungo per inciso, la privatizzazione dei servizi pubblici non può essere una soluzione alla questione dell'efficienza dei servizi, perché i servizi pubblici sono il modo con cui l'Italia realizza quel principio costituzionale. Allora, però, se l'efficienza amministrativa è finalizzata ad attuare il principio costituzionale dell'uguaglianza di opportunità, guardate che il vero oggetto dell'intervento pubblico non è il bene o servizio erogato, ma ciò che quel bene o servizio consente alla persona di fare: istruirsi, muoversi, mantenersi in salute, avere relazioni sociali, avere un'abitazione e così via. Ma attenzione, perché in realtà anche queste attività fondamentali sono importanti non in sé, ma in quanto consentono alla persona di essere autonoma, di essere, cioè detta con la Costituzione, pienamente se stessa, di perseguire il proprio pieno sviluppo, di determinare liberamente il proprio progetto di vita, con vantaggio per sé, ma anche per la comunità di appartenenza, perché è chiaro che questo pieno sviluppo di tutti i componenti della nostra società porterebbe un vantaggio a tutti. E allora, in conclusione su questo punto, il diritto allo svolgimento in maniera efficiente e imparziale della funzione amministrativa non è soltanto un diritto ad avere un bene o un servizio, ma consiste piuttosto nel diritto ad essere, mediante, grazie a quel bene o servizio, una persona umana nel senso più pieno del termine. Allora, se analizziamo la legge 241 del 90 sulla base di quello che è stato detto finora, è come se alla Costituzione fosse stato aggiunto idealmente un capitolo che nel 48, nel 47 non poteva essere scritto, perché l'Assemblea Costituente non poteva vedere i rapporti tra amministrazione e cittadini in questo modo. Allora, in questo senso la 241 non rappresenta lo sviluppo delle poche norme costituzionali sull'amministrazione, ma semmai rappresenta lo sviluppo dei principi fondamentali della Costituzione e fra questi in particolare del principio della sovranità popolare. Quindi, in qualche modo, siamo dentro l'ambito della discussione di oggi sulla democrazia. Qui il problema a questo punto è di portare il principio della sovranità popolare dentro l'amministrazione. Ora, che cosa succede con la 141 del 90? Al di là dell'analisi dei singoli istituti, succede, credo di poterlo dire, che per la prima volta l'amministrazione pubblica italiana è costretta a tenere conto dell'esistenza di un altro, altro con la maiuscola, cioè di un interlocutore che non è più l'utente passivo del servizio, ma è invece un sovrano, se volete, un cittadino, dotato di una serie di diritti. Ha diritto a partecipare, ad essere informato, ad essere ascoltato, ad avere un unico interlocutore dentro l'amministrazione, ad avere tempi certi nei rapporti con l'amministrazione, eccetera, eccetera. Tutto quello che la 241 del 90 riconosce al cittadino. Allora, nell'ottica del binomio funzione-interesse, se effettivamente il rapporto tra amministrazione e utente è basato su questa necessità di soddisfazione degli interessi del cittadino, soltanto il titolare dell'interesse, dobbiamo dirlo a questo punto, è in grado di verificare la corrispondenza tra il risultato della funzione e il soddisfacimento del suo interesse. Ma allora questo significa che la legittimazione quotidiana delle amministrazioni pubbliche non deriva soltanto dalla conformità alla legge dei loro atti, ma deriva anche dall'effetto che questi atti producono sull'esistenza dei destinatari e dei loro servizi. Cioè, in altri termini, è come se in questo modo ogni amministrazione pubblica italiana quotidianamente dovesse rilegittimarsi nel momento della prestazione, all'interno dei confini tracciati dalla legge, certo, ma non basta per l'amministrazione più dire io ho rispettato la norma, perché a questo punto il rapporto, essendo funzione interessi, mi devi dimostrare che tu hai realizzato il mio interesse. Allora, le due posizioni di cittadino e di cittadino dell'amministrazione rimangono ben distinte, ognuno continua a svolgere il proprio ruolo. Ma il cittadino utente diventa sovrano in quanto, da un lato, giudica il risultato del svolgimento della funzione, dall'altro, grazie al principio della trasparenza, qui lo accenno soltanto, guarda dentro il palazzo, per usare la metafora prima ancora che pasoliniana, vicerliniana, e nel guardare dentro il palazzo, però, se il cittadino è un sovrano, deve dare un giudizio, se no che sovrano è? Cioè, se viene riconosciuto il diritto a guardare dentro e a vedere come viene esercitato il potere pubblico e come viene svolta la funzione pubblica, questo guardare dentro non può essere uno sguardo veramente ricognitivo, perché sennò che sovrano è quello che guarda e però il suo giudizio non conta nulla. Quindi bisogna inevitabilmente, anche da questo punto di vista, quindi attraverso anche una semplice interpretazione della legge sul procedimento, arrivare alla conclusione che il cittadino deve avere questo ruolo di sovrano. E allora, arrivando alla fine, come si fa a fare in modo che il cittadino utente sia veramente sovrano nel rapporto con l'amministrazione? Da un lato, appunto, dicevo, c'è questa necessità di attuare all'interno dello spazio amministrativo il principio della separazione dei poteri. E da questo punto di vista io credo che se i cittadini sono detentori di quote di potere che derivano loro dall'appartenenza al popolo sovrano, la loro presenza all'interno dello spazio amministrativo costituisce una forma di limitazione e di bilanciamento degli altri poteri presenti nello spazio amministrativo. Cioè, in altri termini, la proposta è quella di inserire esplicitamente un contrappeso dentro l'amministrazione, dentro quello che Berti chiama lo spazio amministrativo, proprio in funzione di limitazione del potere per evitare che sia abusi. D'altro lato, riprendendo l'ispirazione di fondo della legge sul procedimento, del 341 del 90, se anche è vero che questa legge è la coniugazione, la declinazione del principio della sovranità popolare, tuttavia non credo che si possa dire che il cittadino interlocutore dell'amministrazione è ancora pienamente sovrano. Perché? Perché mentre quelli che operano all'interno dell'amministrazione possono incidere in positivo o in negativo sulla stessa esistenza del cittadino, sulla qualità della sua vita, per i motivi che dicevo prima, non è vero reciproco. Cioè l'utente, il cittadino, non può incidere con il proprio giudizio direttamente sugli interessi, sulle aspettative di carriera, sulla qualità della vita di coloro da cui dipende il miglioramento o il peggioramento delle sue condizioni di vita. Cioè, in altri termini, l'utente non è sovrano in realtà nei confronti dei servizi pubblici perché è in una posizione di totale vulnerabilità nei confronti di coloro che erano la prestazione. È una posizione da sovrano dimezzato, che risulta ancora più chiara se la paragoniamo con la posizione che la stessa persona ha nel sistema politico e nel sistema economico. Nel sistema politico, il signor Rossi, utente della unità sanitaria locale, si presenta nella veste di elettore e in quanto tale con il proprio voto è in grado di incidere sulla legittimazione dell'esercizio del potere pubblico da parte dei propri rappresentanti. Quindi, per questi ultimi, soddisfare le legittime aspettative dei propri elettori è fondamentale. Nel sistema economico di mercato, il signor Rossi si presenta nelle veste di consumatore, di cliente, e quindi, di nuovo, anche qui, può con le proprie scelte incidere in maniera determinante sul benessere economico di coloro che gli forniscono beni e servizi. La famosa frase del commercio, il cliente ha sempre ragione, non è forse vero, ma è indicativo di una mentalità nel rapporto con il cliente. Invece, nei confronti dell'amministrazione, come dicevo prima, il cittadino si presenta come utente, colui a cui viene benignamente concesso di usare il servizio. Il suo giudizio non conta nulla, nel senso che anche quando il suo giudizio è negativo, comunque gli stipendi continuano a essere pagati, l'organizzazione non viene intaccata, le carriere continuano a svolgersi, risorse vengono attribuite agli uffici, non succede assolutamente nulla. Allora il problema che io cercavo di risolvere è questo: come fare a portare nel rapporto amministrazione-cittadino quella stessa dinamica che c'è nel sistema politico e nel sistema economico per cui il giudizio produce degli effetti? Nel sistema politico l'effetto è prodotto da un spostamento del voto da una forza politica all'altra e, come abbiamo visto in Italia in questi ultimi anni, questo può avere degli effetti dirompenti. Nel sistema economico lo stesso messaggio viene veicolato dall'aumento della diminuzione dei profitti. Quindi in questo senso il profitto ha la doppia funzione di premio e di misura dell'efficienza del soggetto economico. Nel sistema amministrativo, se si ammette dal punto di vista teorico, giuridico, che il giudizio dell'utente sulla qualità del servizio possa produrre effetti positivi o negativi nei confronti dei dipendenti pubblici e delle strutture coinvolte, allora bisogna trovare delle forme altrettanto semplici ed efficaci sia per rilevare il giudizio degli utenti, sia per far sì che esso produca degli effetti all'interno dell'amministrazione. Altrimenti questo giudizio è fine a se stesso e il soggetto non è sovrano. Allora, gli strumenti con cui si può fare questo possono essere di vario genere. Io qui poi lascerei agli specialisti di questo tipo di misurazioni, e i sociologi su questo hanno ormai una vasta e raffinata gamma di strumenti di entrare in mente. Mi limito però soltanto a indicare due o tre punti e sono ormai alle conclusioni. Il problema qui sta nel fatto che mentre nel sistema politico ed economico il segnale positivo o negativo è trasmesso da un comportamento che segnala accettazione o rifiuto. Nel caso del rapporto amministrazione-cittadino, questo meccanismo semplicissimo e autofunzionante non è applicabile. Perché? Perché nel caso di molti servizi pubblici non ci sono alternative private a cui rivolgersi. Pensate al servizio meteorologico, al trasporto ferroviario, agli uffici di stato civile, c'è tutta una serie di servizi che non possono essere duplicati da servizi privati. Ma soprattutto perché, questo è il secondo motivo, abbiamo visto, vediamo tutti i giorni, che anche nei casi in cui ci sono delle alternative private al servizio pubblico, pensate alle cliniche per gli ospedali, le scuole private per le scuole pubbliche, i corrieri per le poste, i servizi pubblici non sono affatto migliorati, quelli duplicati, perché i dirigenti e i dipendenti di quei servizi non percepiscono la presenza dei soggetti privati come una concorrenza, né percepiscono l'allontanamento degli utenti come un problema, perché non produce nessun effetto negativo a carico di chi opera in questi servizi. Allora, non essendo possibile utilizzare dei comportamenti significativi per veicolare il giudizio degli utenti nei confronti delle amministrazioni erogatrici di servizi, in generale di tutte le amministrazioni, credo che l'unico strumento che si possa usare è la comunicazione. E quindi qui si introduce un ulteriore elemento, cioè la comunicazione non come strumento di immagine, non come strumento per promuovere, diciamo così, la pubblicità o l'immagine di un soggetto pubblico, ma come strumento per amministrare. In altri termini, un'amministrazione che considera il cittadino come un sovrano usa la comunicazione in maniera consapevole per ricevere da questo cittadino in maniera imparziale, in maniera tale cioè da garantire l'imparzialità e l'attendibilità, giudizi su quello che sta facendo. È importante, proprio per rispettare il nocciolo della teoria della separazione dei poteri, che la rilevazione del giudizio degli utenti sia affidata a soggetti terzi sia rispetto all'utente sia rispetto agli operatori del servizio. Ed è essenziale che i risultati delle rilevazioni siano comunicati sia ai dirigenti sia agli utenti. E i dirigenti per adeguare il servizio alle esigenze segnalate, agli utenti perché questo fa parte del gioco democratico. In altri termini, l'utente che fornisce un giudizio, o meglio, a cui viene chiesto un giudizio, fornisce questo giudizio e sa che questo giudizio viene poi utilizzato per migliorare il servizio e vede l'effetto, cresce in qualche modo nel suo status di cittadino. Cioè percepisce di avere un ruolo che non è quello dell'utente, ma è quello, come dicevo prima, in modo praticamente del sovrano, più semplicemente del cittadino. Si potrebbe su questo aggiungere varie altre cose, per esempio l'importanza nel decreto 29 della responsabilità attribuita ai dirigenti per quanto riguarda il funzionamento degli uffici. Mi limito soltanto a dire in chiusura che in questa ipotesi che ho provato a delineare qui oggi, il rapporto fra amministrazione e cittadini, in cui il cittadino viene considerato come un interlocutore dell'amministrazione a pieno titolo, ma ancora di più viene considerato come un sovrano in quanto in una posizione logicamente sovraordinata rispetto all'amministrazione, perché l'amministrazione esiste in quanto c'è un cittadino a cui fornire il servizio. Quello che viene fuori è un processo quotidiano di esercizio della sovranità popolare in milioni di singoli contatti fra amministrazione e cittadini. Questo significa introdurre nell'amministrazione questo concetto fondamentale della riforma come processo, non della riforma come evento. Significa introdurre nell'amministrazione la cultura della manutenzione, che oggi invece non c'è. Significa far capire alle persone che il loro contributo al funzionamento dell'amministrazione, come è stato detto anche prima dal professor Gozzi, se non ricordo male, l'essere cittadini è un modo per risolvere insieme problemi comuni. Allora, cercare di fare in modo che anche nei contatti quotidiani con l'amministrazione, che apparentemente non hanno niente di politico, i cittadini percepiscano il fatto che viene chiesto loro di mettere a disposizione parte della propria esperienza, del proprio sapere, delle proprie idee, nell'interesse di se stessi, ma nell'interesse anche di tutti gli altri, è qualcosa che secondo me porterebbe a una crescita complessiva notevolissima, perché servirebbe appunto a realizzare quella virtù repubblicana che consiste nel mettere qualcosa di proprio in comune, non soltanto perché spinti dall'egoismo, ma perché si è consapevoli che questo serve a tutti. Allora, ecco, in questo senso mi pare che, seppure azzardata, questo possa essere un cammino da percorrere per cercare di recuperare anche all'amministrazione, per quanto soggetto autonomo, uno spazio di democraticità che oggi mi sembra non ci sia. Grazie. Grazie a Gregorio D'Arena che ha portato adesso questa grosso materiale di non solo di riflessione, ma di azione, insomma, di completamento di questo benedetto modello principio democratico che si ha nella Costituzione, forse la sua, come dice, insomma, la sede, no? dove si può realizzare, ha però certamente nell'amministrazione appunto un motore. Questo noi, io uso sempre la vecchia frase di che hai portato tu, che invece quella è parlato di una missione, costituzionale dell'amministrazione. Mi piace di più perché coinvolge alcune del valore che ripeto, secondo me è un problema che non si può nascondere, non si può trascurare, perché quanto più lo si trascura, lo si nasconde, tanto più questo problema si indebolisce e diventa quindi pericoloso, perché poi i buoni valori possono diventare facilmente cattivi senza che si sia accorto. Questo è un po' quello che c'è. Quindi molte grazie di questo, anche se naturalmente poi dopo la discussione dobbiamo farla. Questa apertura è un'apertura per me, della mia non competenza in queste cose, problematica, perché mi sembra davvero rivoluzionario in qualche modo, no? Tu con la tua semplicità riesci sempre a presentare, semplicità vuol dire nel senso del modo così fantasticamente semplice che hai di argomentare le tue ipotesi, riesci a far apparire come plausibili e realizzabili aspetti che a me come utente sembrano assolutamente cioè fuori al mondo, ma ci credo, cioè sono convinto, ci sono, io ci sto.